Mr. C. Gufo! E you! Che fai facendo, c'è? Niente, sto facendo, sto facendo qua. Che facendo niente, sto facendo? Niente, mi stavo guardando la TV, quello è un programma dell'Alaska. Che e you! Però adesso è finito e mi ha rifiutato. E tu facendo sì? A Facebook sono. E cosa stai facendo? Aligidio, Fabio e Mingo, quelli che erano a Striscia la Notizia, gestivano un giro di prostitute bulgare e droga a TGCom 24, l'ha detto. Ah, va. E mi viaggiano chi da nato. Fabio e Mingo in carcere gestivano prostitute bulgare e droga. Che sta, bubu? Sì, è droga. TGCom 24. Adesso hanno detto. C'è anche la foto, sì. Tu questo bullo è. Ah, una storica bufala, grazie. Dici, ma non so, siccome li avevano buttati fuori, la Striscia la Notizia, normalmente un motivo, ma a me sembra avevano fatto casino, tu. Ma qua c'è scritto che era una bufala, tu. Scritto qua, aspetta. Allora, aspetta, Fabio Mingo in caccia arrestati per giro di prostituzione, storica bufala. Comunque li avevano buttati su e adesso il posto di loro lo sta facendo coso, quello ricciolino di Bari, come si chiama? Piruccio. Piruccio? Ho capito, dai. C'era stata una discussione, li hanno buttati fuori, tutti e due. E infatti adesso c'è Piruccio a posto di quei due. Soltazione stanno di nuovo. Problemi, ca? L'altro giorno se si sposta, no? Cosa del PC. E non lo puoi sistemare. L'ho già sistemato e devo puntare a casa. Evidentemente non l'hai messo in posizione giusta a rimanere fermo. Lo lascia a posto. A predizzare, schiacciare, mollare, si rompì. Sì, boh. Basta premerlo piano, tu. E come fa a rovinarsi? A meno che non era già mezzo difettoso dalla fabbrica. Vabbè. Ma con cane hai sentito, cazzo? No, l'ho acceso poco fa, questo del 5 e mezza. Io l'ho acceso adesso, mi ho spento la TV, e invece la TV con un'altra lampada di tre caffè lì. Per carità, Luca non si è sentito per niente, ma come sa di chi lui mi ha mandato? Boh, deve essere non c'è. Boh, me non l'ho più sentito. Vabbè, non so. Ma io stavo facendo, ho messo a posto un computer l'altro giorno, cioè ieri, tra ieri e ieri, e stamattina qualcuno lo stavo controllando ancora, è perfetto, non si vedeva lo schermo, accendeva ma non si vedeva lo schermo, era problemi di scheda video. Ma gliel'hai messo a posto? L'ho messo a posto, è un amico, gli ho fatto un prezzo buono, dai, sennò, ma io gli ho detto che garanzia gliene posso dare. Vabbè, è da voi vecchio, per il computer, la moto ce l'ha. Avrà i suoi anni, avrà 5-6 anni, tu. Tu gli vedi, compratelo, compri quello vecchio io. Già la dimmi, l'ho venduto. Ah, venduto ce l'ha, e non ne avevi un altro. Quello che mi avevo preso comprato su Facebook. Usate, l'ho sistemato e poi l'ho venduto. Ho visto l'altro giorno che ce n'erano un paio. Purtroppo ci roviniamo noi o si rovinano queste cose? È chiaro, già si rovinano anche loro. logicamente, io via. Oggi faccio un bragelluccio. Pure mamma era così, stamattina a luna sono arrivato a casa, pure lì era così. No, ma io non so chi si dà nessun lusso. Ma capiamo la pensione, la dicevi, fino a giocare a domani. Stamattina non c'era un impagamento. Ah, non ce n'era. Perché domani, oggi c'era. Vabbè, la mia è in automatico. E il motivo? Hai visto quella rapina che hanno fatto a quel blindato? 2 milioni di euro hanno rubato. Ah, 2.300.000 e più. Erano i soldi delle pensioni che stavano andando a distribuire alle fosse, le guardie giurate. Hanno pigliato, hanno bloccato in mezzo all'altra il furgone. Con la ruspa, con un pizzico, se ne era intrassato la gappotta. Mi hanno pigliato di là. In terra mi hanno un paio di là, appunto. Ma qua... No, non è assato, non me lo ricordo in che città è successo. Sulla superstrada, vedo un camion di traverso. Un furgone incendiato, la cabina del camion era incendiata, insomma hanno bloccato lì, lì la strada, poi c'era questa ruspa, l'hanno bloccato in mezzo, l'ha pigliato con un bicicletto, l'ha sardinato e l'ha ciucchittato e mi ha bucato la cappotta, l'ha tritolata, mi hanno pigliato tutti lì. Quindi è poco di là in terra, da 50 euro e passi. Per carità, va. Poi di là hanno bisogno, ma secondo me quando fanno queste cose c'è lo zampino di loro anche, fidati. Oh, i 4 erano, belli armati, fissi nei denti. Da poi ne hanno pigliato i sacchi e i cassetti pure di là. Sto facendo per anni di là pure in terra, la brezza. Sono posato in macchina e sono andati. Chi si ha? Che le è andata a re avanti, sono 4, se li infatti, non va di milioni, ma rombe non tocca. Io lo so, però quando fanno queste cose, secondo me ci sono anche loro di mezzo, ma quanti che si hanno i fatti no, che danno 2 milioni di euro. Non l'hanno mai avuti, ma lasciamo perderlo. Sempre lo zampino di gente interna ce n'è lì, come qua, quando è successo qua, pochettini, si va già per gente di Trento. Cavallo sotto ah, che lo finisci da culo, buono bici. Ma che ha detto, Marco? Oh, che di bello bene, se non è nulla che fa. Ah, qualche bimbo minchia. Da poco fa, che parla assieme a voi. 11 milioni di euro, Lu. 11. Sono 3 milioni di euro in più. 11 milioni di euro. Ma quella di Sassari? Di euro, che mi dici? Ma Predanietta, quello di Predanietta. Allora, 11 milioni di euro. Vai giù, via dai. Che città. Quando mai non recubica? Comunque ho pagato il bollettino, ci ho aggiunto anche il PMR. Ah, non c'è bisogno di aggiungere il PMR. Perché di aggiungere il PMR? Se è già incluso. Nella tassa è incluso anche il PMR. Vabbè, Giulio me l'ha detto, di scrivere aggiungere PMR, ho aggiunto PMR. Ma comunque non c'è problema. Va bene lo stesso. Bisogna pagare una tassa, no? Come questo bimbo minchia che lo usa senza pagare. Lo trovano e glielo ficcano negli occhi. Molte cose non si possono fare, eppure si fanno. Vabbè. Va bene, dai. Mi stavo ascoltando, stavo andando alla TV. Già ci sentiamo. Grazie. Come ti ha detto Luca, in ognuna di queste rapine c'è sempre il bassista. E il bassista è uno che conosce bene l'andazzo, quindi a buon intenditore poche parole. Capito? Non è la prima volta che il basista delle rapine sono guardie giurate. Perché? Perché lavorano lì, sanno i movimenti del mezzo, sanno tutto, ora. Capito? Come lì a Predagneta si suppone che ci sia un basista di quei livelli, però è tutto da verificare ancora. Logicamente c'è sempre lo zampino di qualcuno interno lì, pur magari fanno un conto dietro, non prende parte al colpo, però date tutte le direttive come si va, capito? Ossia che non si sa mai, però già c'è sempre qualcuno di dentro, ma... infatti, però bisogna capire, sapere e vedere se è così. Per il momento intanto, quanto è già passato, non si sa niente, tutto in silenzio, e quelli erano in 10 e si hanno spartito 1 milione di euro a testa, hai capito? Quindi, vabbè, dai, divertitevi, ci sentiamo dopo se coincide che devo fare un paio di cosette. Ciao Luca, ciao Graziano. Ciao Claudio, ok. Vabbè, se li spendono piano piano, senza dare all'occhio a nessuno, campani e tirano ad anarsi vicino. Vabbè. Dai Luca. Ciao Claudio, passa grazie è arrivata Marina, aspetta un attimo. Cantagli quella canzone, Marina Marina. Scusatemi ragazzi prima perché scusatemi prima per le parolacce, per uno di quei scolunti che fossero malvagi, che siete bravi, ma tanto. Vabbè, ma l'importante non fai parlare ai bambini questo, perché questo non è un giocattolo, Ok, questo non è un giocattolo. Noi paghiamo la licenza per parlare qua. Quindi non fare parlare ai bambini con questi PMR, perché non sono giocattoli. Qua c'è la polizia postale che ascolta, quindi capito mi hai, bello beh. Sì, perché vabbè, io la licenza c'è, vabbè, c'è questo bambino che sta facendo con i walkie, ho detto smettila, è molto probabilmente può capitare che ci sono dei che poi dalle parti, qui se ce ne parlano qua. Sì, ma non sono walkie talkie questi, non confondere i walkie talkie della 27 con questo, se ce l'hai la licenza dovresti saperlo. Io sono un radioamatore, sono patentato dallo Stato, quindi dal Ministero delle Telecomunicazioni, e quando si entra in queste frequenze, che sono frequenze dove c'è gente grande e gente che ha la radio e le apparecchiature da tanti anni, ci si comporta in una certa maniera, comunque va bene. Però non confondere la rana con la setta, Uno è il walkie-talkie, questo si chiama PMR. Il Ministero delle Telecomunicazioni l'ha incluso nella concessione della CB, capito? Quindi non è un giocattolo, va bene, ciao, buona giornata. Buona giornata anche a lei, arrivederci. Confermo quello che ha detto Claudio, noi paghiamo una tassa, noi siamo anni. Diciamo che lui, questo che ti ha parlato adesso, lui ha un altro tipo di licenza, che lui lo può proprio, può fare, cioè può andare in altre frequenze, che noi lo possiamo fare, noi siamo, diciamo, CB, ecco, quelli che hanno il baracchino, e lui è superiore perché ha un altro tipo di licenza. Vabbè. Io, va, oh, c'è Cicchina, cattivo cattivina è bello che virano in terra, però poveraccio ci guarda i giurati e le levate frasi ma proprio, attrassando la capota, culo a russa, roba a mafia, dopo di vedere com'era, in che condizione era quel furgone, tritolato io. Ah vedi, quella che hanno fatto a Sassari, non è che ci hanno messo molto, ci hanno messo poco, sono entrati con lo scavatore, ci hanno buttato il muro e sono entrati come se niente fosse. Vabbè, ufficio, non c'era nessuno, Ma questi lì che ha fatto questa mattina all'interno del furgone c'erano le guardie giurate, chiuse dentro, no? A vedere se ce l'hanno studiato lo metodo. Fabrillo, l'hanno biancanzato, sudronato, l'hanno trattato la cappotta, a vedere se l'hanno visto. Vabbè, dai, già sono andati bene comunque, con voglia. Sono andati benissimo, non bene. Cavolo, milione di euro a testa. Ma adesso Claudio prima. Vanno bene. Ma alla fine è sempre lo zampino di loro, sempre. Perché uno si fa una cosa del genere, uno per forza sa tutto. Sa tutti i movimenti, passa qua, passa e c'è quell'ora. E cosa fanno loro? Prendono, come sono tutti gli orari giusti, prendono e partono, e fanno quello che devono fare. Meno male non hanno causato feriti e morti. L'importante è che c'è da bere, di là, se la pigliano in giù. Basta farne di più alla zecca, assai di più. L'importante è che non si sia fatto male nessuno. Di quelle guardie, sempre un rischio c'è che poi alla fine già è sempre assicurato il portavalori, quello sì, ci avranno un'assicurazione sicuramente, sì, vabbè, pagherà l'assicurazione se non sta, secondo me non li rintracceranno questi qua. Quelli sono andati in fonte buono, secondo me. Allora, questi che fanno gli assalti, quelli che hanno, diciamo, inventato il liquido, quello per macchiare i soldi, dovrebbero fare una cosa più, insomma, mettere più liquido, in modo tale che quando loro muovono, cade questo liquido sopra i soldi, si macchiano tutti, così non li possono utilizzare. Siccome questi soldi qua, strano comunque, non si siano macchiate queste banconote, è un bel strano. Comunque dovrebbero fare un liquido, magari mettono più liquido, ecco, in modo tale che quando loro vanno, che fanno movimenti strani, bruschi, questo liquido si, non so, si esplode, comunque per macchiarli bene, così non li usano, non si possono più utilizzare, perciò li va a buca. Quello sì, però poi chi ci rimette? Quei soldi non li può utilizzare nessuno dopo. E chi ce li rimette? L'assicurazione a Tibata. Bisogna vedere. Se li macchia e non se li portano via, tu cosa ti ne fai da bui una buccia che non si tira le buccate di dinaccio, marciati, si rilampi, li bruciano e hai messo un mazzetto. Ma secondo te erano pezzi grossi, tipo da 50, da 100, da 10, cioè da 50, da 100, da 500. In terra io ho visto c'erano da 50, da 50 euro, erano in terra in mezzo ai vetri del furgone, in mezzo alla cosa che viene in terra. Ho visto biglietti da 50, volassette. Chissà se qualche carabinieri prende un distratto, così la pucci in bucciacca la cassa il biglietto. Cosa ne dici? No, siccome stavo parlando con Marina, stava dicendo che ci sono anche biglietti da 10 euro e mezzo. Ma ecco, sono quelli che fanno i ritiri dei supermercati, sono tutti soldi alla fine, non sono nuovi, ecco. Sono soldi già usati, dai. Un po' vecchiotti, ma li avrei voluti lo stesso, Luis. No, quelli che del furgone che hanno fatto vedere oggi, quelli stavano portando, erano i soldi per le pensioni e li stavano distribuendo alle varie poste, non capisco. E dunque erano di nuovi nuovi, brecchi. Vabbè, comunque te li danno anche lì alle poste, non c'è? Lo so, però molte volte a me me li hanno dati nuovi, infatti di canto sono nuovi. E li devi infondirti veri diti a chi si attacca le bari uno, invece sono due, compreso. Un bel volte ci ammendi o andiamo a cuparà. Posso così dire si stacca l'altro, capito? Quando sono qui. Ehi, a giocavito. Vabbè. Vuol dire che ne avevamo bisogno, grazie a di questi soldi. Beh, sì, certo che sì, se no noi l'hanno andato a furare. Ah, io penso che magari per la gente la famiglia, e magari erano proprio disoccupati. Se sono disoccupati, meglio mai che andare dove. Ehi, esci a vedere se c'è Tore. Tore, ci sei? O Giorni Maria, ci sei? Ma non ci avete altre cose da dire. Sempre con i soldi state parlando. Giorni Maria, ci fai bene, c'è? Ma non so che io lui. Sempre uccidere, non ce ne dirà la Graziano, che. Cosa le rifai, le dirà? No. Per carità. Cosa devi fare, devi dire a Graziava? Ehi, ma che gli fa un copriletto, un cuscino, la fodera, pure i biglietti da Zicuzzetto, una bella fodera e la coperta con quelli da 50 e da 100, che rimangono più caldi. Ah, quelli sono sempre freddi, cazzo. È un materiale troppo freddo, per cui non scaldano mai quella roba. Ehi, già le cazzo, io. Diglielo tu, Luca, freddi sono. Comunque, buonasera, eh. Vi stavo ascoltando, ma sto guardando un film, dai. Appena che finisce, già rientro. Ehi, you, cos'è John Wayne? Oh. La fuga di un cavallo morto. Me l'ho sentito poco fa, mi stavo guardando Alaska, quelli che vivono in Alaska, in mezzo ai boschi. E da qui finito mi si è iniziato i fatti di casa, ma non mi piace. Grazie. Guarda, su Italia 1 stanotte c'è Ghiaccio in Fiamme, guardatelo che bello. Ma ieri notte me ne ho visto uno, che era bello. Però l'avevo già visto anche qui. Penso a tutti i film che anni gli ha dato. Quello ieri notte era in America, questo disco volante degli alieni. Una cagata, là, tipo. Già film d'attili. E trasdatti, no, non stanno dando più niente, tutta roba già data. Fatte scienza, là. Sì, ma che c'è lui? Poi c'era anche all'altro canale di Su West dell'oro e ha visto Bruce. Tutti i film gli ha dati, non ne so tenne più film nuovi, tutto mondezza. Quello l'altro giorno ero 20 anni senza averlo, guardate questo l'inizio, me l'ha messo subito, gira canali, tutti i film dati e visti mille volte, per carità. E anche a me, ma sono sempre gli soliti classici, e sempre rimasti insomma. Alla fine non me ne avvedo nemmeno io di lì. Oh, stasera sono sempre matti. Molte volte cerco, giro, se troppo documentario mi guardo il documentario, che è più bello. O se no lo metto a 59, sempre quel canale Alfa, e mi guardo quel canale lì o quello più in avanti. Documentari, capito? Focus, anche lì ne danno documentari. E cosa va meglio? Un film che ha già visto mille gusti, io lì. Non ci piglio gusto, sai già com'è? E che senso ha guardarmelo? E comunque, già, ce ne sono film belli, dai. Io che mi addormento sempre. Come no? non che sono di quelli di mafia belli belli, allora no, se mi piace proprio, mi metto in posizione giusta, eccolo qua. Orizzontale ti metti. No, in piedi dritto mi metto. Allora se ti metti verticale, là. E io dico di cosa me che non ha fatto manco documentari. Ah, provete, mi si forro dritto e buonanotte al secchio. Perché il TV in camera non ne hai? Sì, infatti ogni tanto mi giro quando paletta e paletta sta sempre i regni romantissimi. Io non gli ho venduta, chi ce l'hanno gli ha dato, chi ce l'hanno... Sta sempre gli regni i canali, mi sa se non ha casa qualche cosa che non l'ha vista e allora se lo lascia lì. Ho capito. Ah, giù capito, la televisione sono in due. Io metto un prezzo, loro se lo fanno loro, ascendi a quello, ascendi a quell'altro, boh. Ma se è quello il prezzo perché stai lì a tirarlo, un tipo voleva quello da 32 pollici, 80 euro, la compra già di nuovo, esci da Nanzi, mandano in Bucarotto. Ma non è quello che hai trovato? No. Sì, vabbè, fatti di lucci, fermo, io vi l'avevo dato, ma... Tanto già ne recuperi se ne vedi giù. Lo so, grazie, però se uno mette un prezzo è quello, cosa stai lì a tirare? Tu pensa che uno voleva... io gli ho detto 100 euro lo sto dando, no? E dice dai, ti do 80 euro senza telecomando. Ma cosa... ma non te lo do. Se lo vuoi così. Infatti ho preso poi, ho cancellato la... cioè quando ti mando il messaggio tramite il gruppo, no? Ti rimane come se avessi fatto un gruppo su Messenger e mi sono l'ho abbandonato. Lui si è reso conto che sono uscito e non mi rompo le scatole. Se non vuole il televisore, vai solo a comprare nuovo. Ehi, sì. Oh. A me quel mobile che ho preso, che è uguale al mobile che c'è in cucina, chissà me mi ha detto... quello lo sto dando 100 euro, se lo vuole così, se no, no di meno non lo do, me l'ha detto già scritto, anzi da prima ha pure telefonato. E io gli ho detto, oh, va bene, portamelo, lo guardo, se ce li vale, te li do 100 euro. Me l'ha portato, sì, a casa, lo marito, e lui è una ruina. Ed è nuovo, il giorno che vieni te lo faccio vedere. C'ha due cassetti e due forzine, ed è uguale alla cucina mia, uguale identico, preciso spiccicato. Infatti l'ha fatto lo stesso Santona quel mobile, ed è uguale alla cucina mia. Beh certo, cioè se proprio stai lì a tirare il prezzo, se fai domande nell'elemosina, boh, è come un tipo stesso del computer, se scendevo di prezzo, già è basso quello del portatile, va più che bene quel prezzo che ho messo. In più ho aggiunto anche la borsa, e mi chiede ancora di scendere di prezzo, se non vuoi così, avessi già sborsati, Io la macchina lo stesso l'avevo messa sul computer, ma telefonando di tempio, ma di meno non la dà quella macchina, no, allora vai alla piazza, no, non mi faccio perdere tempo, no, già mi interessa anche lui. E allora se gli interessa venga e fa l'affare, la moto lo stesso, ma telefonando di meno no. Ascolti, gliela sto regalando per quel prezzo, di meno, vai alla piaggio e vedi quanto costa di meno. E dice, no, sto domani mattina sono lì, fai come ti vuoi. Ma se il prezzo è quello, non ti stai lì a tirare, a fare, cioè, costa le cose. Poi se uno... già, vabbè, io quello, guarda, quel telecola TV è nuovo, abbastanza nuovo, usata poco anche. Se li vale 120 euro, ma sta a 100, buonanotte, e mi tira ancora il prezzo, già, tanto a casa e non me ne chiede il pane, lo sto dando perché ce l'ho in più, e ne ho 4, cosa me ne voglio? qui io ne ho uno, due, tre, quattro in casa. Più quello grande, grande, col carrello che ci avevo qua al salone, ce l'ho sceso in campagna. È nuovo, vedete, la Philips. Ci ho sceso tutto il completo, l'avevo messo in vendita. Non mi ha chiamato nessuno e se l'ha riparato in campagna. Tizio di campagna, si l'ha giù la parte e mi ho lasciato quello là, che è tutto completo. Col decoder incorporato, giusto? C'è il televisore, no, il decoder sotto, poi c'è il DVD, tutto insieme avevo comprato io. Televisore, decoder, DVD e il carrello del mobile uguale al televisore, il colore, tutto completo io. Il digitale terrestre, tutto un blocco aggiubilato, la linea aggiubilata, ho preso tutto nuovo. E l'avevo pagato 1,5 milioni da Truni. Ma ho compreso il mappamondo, Tutto il televisore col carrello e tutti gli accessori che ci buco. Completo. Ma il mappamondo c'è? No, il mappamondo non c'è, e dopo questo mappamondo. Completo, Castanetto Bogo, extraterrestre, hai detto tutto, ma se non vanno mappamondo, è come mettere una casarella, chissà. Sì, no, è nuovo nuovo, è bello pure come televisore, solo è un bel mano, gli ha preso a Bogo. In due, ragazzi, veniva male, a buttarsi. Ma è di quelli a tubo cattolico, però non è come quello che c'ha Luca. Quello che c'ha Luca è di ultima generazione, è regalato a quel prezzo. Ci tu lu ciambi, no? E scrivi regalo televisore marca Samsung o Panasonic, che quello che è, se non mi ricordo. Non c'è niente di telefoneggio. Già lo so Luca, ma meglio che non lo fossi. Ma già mi assinano così quando metto una cosa in vendita. Se fai scambio con quello ti posso offrire 100 euro, ti posso offrire 80 euro, ma magnatini, se chissà la cifra è chissà. Quando ho messo le radio vintage io in vendita, mi chiamavano da Cagliari, se scendevo qui almeno i soldi del gasolio, ma non mi ne affutta mai dei soldi del gasolio, quello è il prezzo, se vuoi vieni te le prendi e se non le lasci dove sono. Giusto. Beh, chiaro grido, a me chissà, la giudice, ma il prezzo quello lì, dici 100 euro, e va bene, già ho sentito che 100 euro, e me lo porti però, io non ci posso venire, certo che glielo porto, e se lo porto adesso sono in casa, se no quando vuoi lì, me lo dice, dice stasera appena rientra mio marito, e va bene, già sono in casa. La sera verso le 7:30 mi ne giunto un marito con lui e una rocaina. No, guardate della nuova nuova, perché tu hai la voglia che se li vale, perché quel mobile minimo costa dalle 6 alle 700 euro. Ma la gente si fa un bel spavaldo, no? Poi quando deve comprare, allora si tira indietro, capito? È sempre così. Io ho visto una radio che mi interessava, un base VEU amatoriale, su internet, ho letto Posada, numero di telefono, telefonato, e ho detto lo puoi spedire o vuoi che venga io a prenderlo, almeno te lo posso spedire o puoi venire a prendere. Allora guarda, domani a mezzogiorno e mezza sono da te, sono andato con un altro amico che conosce bene la strada, perché lui lavora in quella zona, gli ho dato i soldi, 900 sacchi, e l'ho invitato anche a pranzo, non so. Ehi, perché così? Sì, la cosa è nuova, conviene. Io quel mobile, l'ho guardato, era nuovo, già si vedeva nella fotografia, nel telefono, che era nuovo, senza vero, bello, nuovo, nuovo. E dunque gli ho detto portamelo e me l'ha portato. Mi ha rilassato, l'ho guardato, gli ho dato il soldo, ciao, grazie, arrivederci. E se ne sono andato. Infatti se il prezzo è quello e basta. A me addirittura mi ha regalato anche il rosmetro vattimetro ad aghi incrociati della Daiwa regalato. Ma tu guarda, perché a me mi hai detto 9, questi sono 9, dammi la radio, io andiamo a mangiare, c'ho fame, capito? Mi ha regalato un rosmetro, vattimetro, UHF, 50 mega, 4 bande, costa più di 100 euro, quindi quando uno si mette d'accordo e paga, problemi non ce ne sono. Il problema è andare in attirà, che a me mi piace il bocco, capito mia grazia? Comunque il tuo non c'ha mappamondo, quello di Luca c'ha il mappamondo, vero lui? Sì, a me c'ha anche la brizzella attaccata dietro per metterlo sulla. Così quando ho venduto il Vespone, hai visto mica la già di solo un Vespone, gli ho regalato il parabrezza, una sella lunga non va nuova, roba di Rosi che va vivo sempre del Vespone. Ha detto te, sì, i caschi, uno nuovo dentro la scatola, quello di mia moglie, l'ha basato una volta e due. Te, porta di seduto, dammi, mi devi dare, c'è arrivederci. E gli ho dato tutto. E dammi le pazienza. Ma infatti voglio anche a pagare, no? A portarsela via. Guarda, ti includo tutta questa roba, che valore ha? A 350 euro. E lui non li spende quei soldi. Se si butta tutto. Però la gente vuole tutto al regalo. E poi, quando l'hai regalato la roba, manco ti fa vedere in più. Manco ti salutano, si girano i ripatti. Per carità, passa via. A dopo ragazzi. Eia, no, io la dico a te, tanto non me ne faccio niente, poi c'è di sia, pure questa cosa, e infatti me l'ha detto, ma niente ti devo dare per questo, no, teniti, tu dammi le dinari, mi devi dare se a fuoco, e glielo dà, vai lui. Ma si fa così, poi se uno decide di regalarla, regala e via, capito? Che sta lì a fare i giretti. Vabbè, se vuoi qua. Ma se ne ho venduto cose che dovevo vendere di più, ma lo date più e in più ti chiedono di scendere di prezzo. Cioè, cose assurde. Computer non ci venduto. Portatili lo stesso. Quello, se lo vuoi, se non lo lasci. C'è sempre quello che sono conta, che sempre per lavoro. Io ho dato un i3, poi ci ho messo, da 4 giga l'ho portato a 8 giga di RAM, poi l'hard disk da 320 giga l'ho portato a 500 giga, ma chi la va a fare? Così c'avevo una moto piccola là, però 50, di quelle... con le ruote basse, una mini moto là, però sempre già camminava. Mi deve battere in garage. Una lì, vedo un amico per la dice, ma qui questa moto. Ma qui, poi c'è di Cina, figlia di là e poi c'è di Cina. Gliel'ho regalata, e non si è più portata in pulca. E la giù regalata, lo sa. Se non se ne fa niente, io per esempio ho lo zip, no? Lo sgabuzzino. E uno mi voleva dare 200 euro, ma ci ho speso un po' di soldi, sopra, veramente. Non è che ci ho speso tipo 1000 euro, no. Ma ce ne ho speso, ho messo il pezzo, ho messo la gomma, ho messo i freni. Insomma, tutta una spesa, l'ho tutta riforniciata. Insomma, lo zip è abbastanza nuovo. Come si dice, il motore è a posto, no? No, 200 euro, ma se ho speso io 200 euro anche di più e mi vuoi dare 200 euro, la targa, non la conti, che costa 80 euro, adesso io non ho più il libretto vecchio, no? Quello che c'era una volta, ho il libretto come la macchina. No, io la giustiera funzionante la moto, la porta in moto, era per il bella, l'ha messa in moto. La mi mette in moto, mi funziona, è nuova. È nuova era, però non me ne vado a lungo, la volta c'avevo anche il Vespone, il sì, in garage, e pure mi si è messo a ripetere. E gliela può regalare, no. Almeno se divisi a Edo con un figlio. Io non so, sto cercando, ma mi sembra di montetti, io sto messo male, 400 euro, macchina. Tutti marciante, poi nel caso lo smontavo io, bene, lo riproduciamo a nuovo, che c'è troppo così. O sì o ciao. Guarda che c'era un simi, 100 euro rosso, fino all'altro giorno c'era, su compro e vendo, ce n'era un... È uno bianco, vidio bianco, ne voleva 200. Però non era lo stesso padrone di quello rosso, abbigliato. L'ho già visto, senza libretto, siamo in corso. Ah no, allora di là con i fila bianchi. Io dovrei avere qualche libretto. Uno, due, sì. Non mi ricordo che è morto, Ce li devo avere da qualche parte. Normalmente si cammotto lì da Paolo. Mi ha detto che un mappamoto non ce l'hai. Mi ne ho visto su uno, vende e compro. Un mappamoto di Santighi, marro. C'era, questa sera stavo guardando e c'era. Ma gira. A gira, grazie, ufficio. Non lo so, l'ho visto nel telefono io. Tu compri e vendo, di chi si mi pareva che di quelli stile antico, con le scritte all'antica, capito? Ah, quello è stile a mira. Penso che giri però, perché c'aveva il piede sallo. Girerà. Ce l'avevo tanto tempo fa in salone, un mappamondo simile, da. Però vi era un cerchione che lo sosteneva e girava all'interno di questo cerchione. Mi ha diminuito. Cosa va via il piede malato, il piede stallo malato? No, invece di essere appiccato a un piede stallo, c'aveva un cerchio e lui era all'interno. Allora Ghiso è già malato. Ghiso gira troppo, le gira la testa. Oh, come quello di Luca lo voglio io. Mappamondo senza piedestallo. Ciao. Mi piace un martellino. Poi va via. Che sanno. Con la broca, con un levamano, la di rossa, come si chiama. Con lo specchio antico. Lui ci mangia venduto. Cazzo, tutto già vendendo. Tra poco ci vende pure un pappagallo. Il levamano. Ah, e chi sa che c'è un lupo, c'è un lupo che è... Adesso... Un bestè. Il tuo graziano. Il mappamondo col piedestallo, cioè. Deve essere una cosa vedere. No, a me la televisione, il televisore mi serve col mappamondo, grazie. Non mi serve... Il mappamondo col piedestallo, no? Oh no, io sto cercando il televisore col mappamondo, capito? E Luca ce l'ha, mi non dicevi la via. Ah, l'ho già venduto io, sta cercando un altro lui. Ciao Zè. Buonasera a tutti. Sì, anche a te ti serve, Zè. Piedestallo. Ciao Zè. Buonasera, Graziano, buonasera. Un stallo piede sta vendendo Luca. No, mica Stefano, sempre ce n'hai quelle ciabatte di ferro. Sì, sì, quella sono antifortunistica per lavorare l'estate. Ma l'importante è che ci siano le unghie a posto, perché se inciampi con quelle diventano molto sega. Infatti. Bella bella sono quelle. Grazie, no, c'è roba che non mi serve. Tu procurami un televisore col mappamondo. O in alternativa un mappamondo di ultima generazione con questo piedestallo. Già lo procuro, quando lo procuro già te lo faccio sapere. Luca, tu che sei sempre in giro, guarda anche tu, se lo procuri tu, me. Io ce l'avevo e so che lui poi aveva altri agganci con un altro piedestallo. Bisogna informare anche Gian Maria magari ce l'ha, me, in magazzino. Ciao Maria, e che c'è un magazzino, fra poco non entra più, cazzo, c'è la roba che c'è. Tanto che non andato io a prendere radio di Mario, tu pieno di roba, mamma mia. Mi avete in stoppa. Avanza il trasporto burlata, moto bici dritto. Avano figli da più. Perché no, mi è molto ordinato, molto fatto bene, soppalcato, tutto in ordine, però non c'è più posto, un po' di roba c'ha. Lì le conviene fare un box in campagna, con l'istituto in campagna. Beh, Stefano... Dai, riprendo a sbalzo riprendo, dai. Vai, già lo so che stai facendo, sono anche in ascolto sulle R0 e sulle R7. Va bene, chi è questo? C'è uno che sta... non lo so, vabbè. Riprendete, Ullu, dai, io c'ho anche roba al fuoco. No, devo votare il levamano che è pieno d'acqua. Se è tanto. Tu ok, non è che fatti tu? Ciao Lu. No, non posso andare da nessuna parte, sono impegnato qua a casa in questo momento, quindi... Ma adesso non mi posso muovere. Ma è di questa macchina, da aiutare. Quale? Quell'altra che aveva? La multipla. Sì. Toccalo. Sì. Sei in giro. Sì. No, ce l'ha uno di famiglia, ce l'ha. Ah, ho capito, meglio così, no? Meglio così, tanto stai visto. Porti a quello, e faccia a quello, porta a quell'altro, e faccia a quello. Ecco, faccia pulizia, cosa nuova per spendere i tuoi soldi. E infatti. Vabbè, mi assento, dai, già vi ascolto da lì. Ciao. Ehi, è bello, riprendi. Ehi, ciao, stato. Ehi, cosa riprendo? Aspetta, mi alzo, che ne sono? Vado e metto la... apro la tapparetta e mi faccio la doccia. Ehi, allora vai a farti la doccia. C'ho ragione, 7:10. Che è acceso qua? Quando è finito chiama. Ma ci viene a farmi la schiena? No, oggi non ho voglia proprio. Oggi gioco tracco senza vanita. Che cazzo, boh. Ti costa niente. No, non ho voglia, no. Boh, mi sento un bel pisante oggi. Boh. Sei come Mappamondo, proprio come Mappamondo. No, io sono Mappamondo. Che si battiti mi sono rincoglione in avvi. Come mai? Adesso, dopo domani devo andare. Ce le ho finite, era per 10 giorni. 10 antibiotici. 10 bustine. Per carità. Grazie, se non metti con nivora. Io ci faccio pensare a 2 euro. Se mi lasciate medicine non mi piglio. Mi piglio questi e mi piglio sempre. Ci sono ammazzenti secondo me. Ti vogliono fare fuori. Così pagano una pensione in meno. E allora, deve essere ne ha ragionato con l'impici. E allora, ci vogliono fare fuori con queste pastiglie, uguale, no? Ma ce ne datene tutto in un botto, diciamo che non piano, così tu muori lentamente. A ripetere, bravi, meni, e qui sarà appoggiato il un gombolino, ma tutte adesso le devo prendere. E te allora, una adesso e una domani, tutte insieme le prendo. Ma mi scusi, se prima si prendeva una alla volta, dopo magari fra 2 ore prendevo l'altra, ma adesso si prendono tutte insieme. Tutti pari mi ripiglio. Eia, vabbè dai, grazie, arrivo subito, dai, non ti dormire. No, vai, già sono qua. Oh, io, quando entri chiama. Bello. Graziano, Matisio, ora. Arrivato sì. Arrivato sono. E tu lì sì. Con Luca ero. Claudio che è in ascolto. E anche cosa, adesso non mi ricordo il nome, in ascolto. E anche Gio Maria è in ascolto. Luca si è fermato la doccia. Ha detto di andare a friarli di fatti. Grazie, aspetta un attimino che è venuta gente. E vai, vai, chiama quando vieni. Musica di Biasi. Regale che poi della musica. Oh, sono Graziano, se Biasi la musica. Certo, bisogna che l'allenarecci, Mia mamma un anno in più fa. Per carità, ogni tanto le combina l'una. Tanto, buonasera. Buonasera, Gio Marì. Come si va, come si va? Un po' cappello e un po' in macchina. L'importante è che si possa camminare o a piedi in macchina. Andiamo, andiamo. Infatti, allora. E c'è il battito, non è tratto ancora, no? Era già avuto ancora le rovarla, già avuto, se riuscito da una messa. Era già avuto a rovare. Beh, se ne sciacqua, abbiamo la bocca secca, se ne sciacqua di sira. Non lo so, fa vedere con questo tipo. Mi giro, ma fa far vedere con lei, non verrà più. Parito, allora è fuggito subito. Allora è fuggito subito da casa. Gianmari, che te c'è un denne, me? Per carità. Ogni tanto ne fai una. In la discoteca si crede, Graziano. Ah, beh, che ti devi pure sull'attenti, mi. Bello bene. E se no? Ti metto in coso, come ti si dice, Tommy? Ci ha furiato, se Tommy. Boh, hai ragione. Te l'ha già detto? Anno nuovo, non lo gioco, no. Ora bicicletta, tu vedi. No, e allora è vicino mare, che bicicletta non nasce manco duccato io. Bello beh. Eppure mi pare giusta, da male. E tu hai visto doppi. Tu hai visto attrappare le biciclette e hai pensato che l'attore. Ma su Manzano io sono andato a fare il pesa. E poi sono rientrato ed ero per le cose in casa, quindi non sono più uscito. E allora c'hai un sosia, forza! Vero Giammari che fa un sosia! Torni a fare un capo a bossi soio! Giammari, quello frate che vira su Manzano, invece nella bicicletta, ero. Dicevo di che io, cazzo, era, grazie a me, messo a tutti. Anche se dai, poi con l'anno nuovo buono, rimessa, tutta a rovescio rimessa. Ma è morto gli avvirati, Giulia, che ormai figli non ci vedi morto stamattina. È morto. Poi, è galandrata, ma ha morto bici. Ma chi se ne sei, ce l'ho? Storia di poco, Gian Maria di poco. Senta che da stanotte comincia a baciare, di temperatura comincia a baciare, che arriva in questa perturbazione vea. Riportati il passo solo da Graziano, capito? Che non passi a quei nomi. No, chi ci ha detto in Sicilia e al centro sud in Italia, il continente. La Sardegna non ha detto, Tore, Ma sai come te? Lascia a domani, ho da ridu. E lo intende cosa è? Ma eppure io l'ho visto il metro, il continente, è Sicilia. Della Sardegna non ne ha parlato. Ha detto, di avalli, in pensione già da 67 anni, prima era 62, ma 67, quando si è accorto a morire. 6 e 7. Ma la legge Fornero ne era rampata, quindi non so se vale ancora quello lì. Hai compreso? Che hanno bloccato tutto, hanno bloccato. Anche il coso hanno bloccato, dovevano essere le rivalutazioni, invece l'hanno bloccato per altri 3 anni. Lui ha ricevuto l'aumento, invece l'aumento vero di Bongarido. Boh, no, che aumento non ha gente. Ha gente che aumenta la luce, l'acqua, mi pare, buio. No, no, a chi ci hanno detto, ci hanno bloccato tutto. Deve venire bloccato pure chissà cosa, deve venire bloccato. Il governo deve puniciare. Se blocchi a noi devi bloccare anche quello, devi bloccare. E cosa è? Non fai salire le cose, né nulla, le pensioni, la vita che è, devi aumentare tutto, e no? Dico, aveva già detto che non aumenta nulla, non aumentano. Poi ho sentito che se ti compri la macchina elettrica ti danno l'incentivo di 6.000 euro. Finirà l'incentivo loro, questi delle cose, quando vai a cambiarti la macchina, è già scontata così, quindi la deve prendere così. Hai compreso, i signori? L'incentivo già c'è, e basta lasciare via indietro. Ci sarà truffa, Ma Rasuti, io se la studiare vecchia. Non me la voglio giambare io, che non mi ha fatto rubrigio. È tutto canti, sono già scontata. Ma è l'incentivo dov'è? Ma l'incentivo è già così. E allora fate una cosa, tenetevela la macchina, arrivederci. Ma venga qua, ci mettiamo d'accordo e se la tenga a conto, ha giudito. C'è tutto un giro di truffa, Marazzucchi. Oh yeah. Beh. Vai Giammari. Cos'è che hai bloccato tutto? Siccome hanno bloccato, doveva essere le rivalutazioni delle pensioni, no? E invece il governo ha pigliato e l'ha bloccato, basta 3 anni l'ha bloccato. Non basta che ci sia Fornero, pure che ci 3 anni aveva Fivuni. Chissà, quando è cose siamo dorrabovari. Bobo, e le macchine elettriche cosa pagali? Le macchine elettriche, c'è l'incentivo, no? Ti danno l'incentivo di 6.000 euro. E io invece che andato facciamo va via. E invece è tutta una truffa, Tutto un giro di ratto. Non sai come te fare di là, capito? Sicuramente non basta che tu ti dirà che faccio pigliare, capito? Le buoni asseri. Sì, ma io mi fate una cosa. Mi adopero ancora questa, il motore è buono, tutta buona. Ah, altro paio d'anni, 2-3 anni, la faccio camminare ancora. Poi si vedrà. Ah, io la posso guardare tranquillo in bicicletta, to. Infatti, invece di trattarmi la macchina, mi tratta la bicicletta. È l'unica, Bisogna pedalare e camminare sempre. Ma tu, faccio uscire in macchina nuova, mi adottero quella che ho, e più lascio ferma la macchina e mi prendo la bicicletta. Ed è molto sana. Avanza, invece di comprare la mia macchina mi compro la bicicletta elettrica oggi. È l'unica oggi, Bisogna risparmiare, se non è chi dà ragione. Graziano non fa problemi, di reddito, che si può permettere tutto, capito? Noi no, però, noi dobbiamo arrangiare. Io già voluto da qui e per il vista sotto a casa, ma... Ah, c'è a Sarubiano a pigliarmi. Vesso letto. Giammari, purtroppo siamo nei tempi brutti. Avanti, luce e gas aumenta, avanti, il mese aumenta, luce e gas. No, si è ribloccato tutto, Borovici non deve aumentare, non è così il sole. Infatti, deve essere tutto bloccato, deve lasciare. Ma su bocca, che se no... Dai, giovane, tanto lo faccio rodare, mi sono già ripensionato in guerra. È tutto canto in guerra. Ma cosa non andava così? Insomma, tutte le cose contro il povero, grazie. ha preso quel povero gatto, per un poco che vale, per rubiglia le gatte, per carità. Dice, sai di cantella, aumento, fino a 1522, eh? L'aumento di quant'è? Del 4,92% d'aumento. Grazie. Tu non fai problemi, no? Sei tranquillo. Tu fai parte dei ricchi, così che non hai problemi di niente. E qua noi, che siamo bovari. Ha detto che non fa vita, Gio Mari. Anche se no dopo si fa cogneggia. Isso, e no, va andando in ufficio, andando, dai. No, mi ha chiamato la padrona, il principale. Cosa hai detto? Ehi, passaggio è là, grazie. Che è passaggio, dai, è sempre da domani. Ehi, già si passerà a voi vecchi, avanti tu. Ehi, andiamo, grazie. Ehi, dici di tu, non mi dici a me, vuoi andare, dici di tu. Ehi, andiamo a ciappare per fare la domenica, va. Ehi, infatti, domenica la Befana, con le calze viene di notte, con le calze tutte rotte. Ehi, ti metti tu, no, la Befana. No, chi sanno niente, non la giugana, se mi metti a ricucare buona a tutti. Scappa sacca il Massarella per fare gli signori che hanno messo e strassato la cappotta in suo furgone. Gli si sa di bemera per fare. Ehi, ma secondo che è, non si deve far vedere, spendi in grande media, che se no li fa tenere subito la caccetta. Ehi, l'importante è che viene sicciato, che si è stata abolita la questione, che non sostiene a niente di grave, come ti sono giusto sede, no. No, è davvero che non pensate nessun grave, no? Che sì, meno male, non sono stati morti. E vabbè, meglio così, di dinaria le fate un'unia di la zecca, a voglia di dinaria, ma per odore. Ma la zecca se non fare un materiale non può rifare di là, Più un materiale ma fare la zecca, li dirà. Ehi, Annani, materiale ma fa di là, a voglia. Io li so controllati, va, so controllati tutti. Tutti sono controllati, qui si chiede per il sattetti di burro. Ehi, da poco chi si cane cubiato. Avano mi ha messo così a Napoli. C'avevano anche la carta di filigrana, proprio la carta adatta per fare i soldi, a mai da Davide. Ed erano i perfetti, perfetti quelli che avevano stampato. Quasi quasi non si riconoscevano che erano falsi. Ecco preso. Hanno migliorato un bel, chissà quanto venne in giro. Ma va, è solito, va a fare i macchinetti, caduto, biglietti bambini, la ricontrollano subito, capito? Così che, va, sono i parenti, vai tutti i macchinetti, i supermercati, eccetera, capito? Ma chi ci passava neppure la macchinetta, chi arrivi a stampato, chi ha ricopiato la fabbrica? Chi tu che sa bello papà di là, adesso non mi ricordo. Oh, e lavorava nel settore quel tipo, E dunque i di là erano perfetti, perfetti. Non si vedeva nulla che erano in faccia, che un bambino era pure un bambino che tratta di papà di là. Ma non sono il dottor che li fa via, li diranno. Ci ha messo il dottor che li fa via, il dottor un carina, ma Aldo Fabrizio, no, un carina. Certo, chi si muta già erano attrezzati. Ehi, hanno fatto via in antichità le 10.000 lire, un avvoglio di lenzuolo. Fatti, gli hanno arrivato uno e due a Napoli, ne ha fatti. papà! Sempre, anche tuttora, che tuttora ti credi che non fai caffè tu che l'hai fatto? Ma! Tore! Io, Gian Maria, dimmi! Cazzo, ma come ti fai a conoscere da farsi, sto? Non ci compreso, no? Come ti fai a conoscere da farsi, chi so farsi? Si conosce, ne si. Però passati da me, la giubilata da Romanco, ma... Cazzo, andavo a finire le pesci, oggi tu cazzo? Vabbè, da un poco. So che entrata a Trento, oggi tu... controlli queste a vedere. Non so che queste sono facili. Ma l'avete date voi dal bancomat? Quando mai? C'è come? Non ripeto, l'ho preso dal bancomat. Sicuro, se ci vuoi scrivere è curato. La ci vuoi scrivere è buro. Buonasera, signor Bacchi. Buonasera, signor Cora, signor Giordiano, signor Giordiano. Buonasera, signor Cora, avanti ancora. Così, c'era la battuta che hai fatto giù, ma ha fatto 50 euro. Ciao Bacchi. Ciao, grazie, buonasera. 50 euro hai fatto, meglio così. Non è così, non è così, è che so come, l'algebra levati 200 euro. Quando sono andato me l'hanno dato un faccia, ma sono diversi, l'ho fatto controllare a Trento, ho detto mi voi me li avete date, 200 euro sono. Cazzo, se ci ha dato questi, mi ha dato questi qua. Ci l'hanno rifinati, chi mi trette, si è andati a qualche giorno, non si innabizzava. Chissà quanti voi ci rubate. E chi sarà con la corrente, cazzo, il cigosi, no? Magari fino ad oggi se la porci in cassa a di gli biliari, così che a di io intanto i biliari di Rabone, capito? Ma c'è il signor Marchisio. Il banco mi deve non dare soldi falsi perché vengono contate, sono le fotocellule, se sono falsi non te le date, te le posso dare al bancone. Al bancone te le possono dare e lo tieni a bitti, però il bancomat no, quelli di calibra, prima di uscire li controlla uno per uno, se faccio lo tieni a bitti, sta tranquillo. Al banco sì, al banco te li possono rifilare. Allora, Bacchi, se la prima, la seconda, la terza volta è passata che me le ha date false. Alla terza volta però, quando li ha controllati lui, alla terza volta li ha passati. Però la prima volta no, la seconda non ha fatto lo stesso, sono passate lo stesso da un buone. Alla terza volta, come ti rapporti, l'ha dato un falso. Hai compreso? Vuol dire che so, pure anche la fotocellula è passata. Vuol dire che sono perfetti, perfetti quelli, come quelli che hanno trovato ultimamente, l'hanno fatto vedere al televisore. Chi saprà bene a Paola quando biglietti da 50 euro. E tu sei truffaldino, sì. Ed erano uguali, precisissimi, pure un bambino. Ciao tu. Di filigrana, quello che adoperano proprio per fare di là. E non sembravano per niente falsi, eppure erano falsi. Ma uno non se ne avvisava nemmeno, se non li guardavi bene con la macchinetta. No, non li guardavo, Luca, buonasera. Non li guardi bene, le serie, tu devi guardare la serie. Quando sono falsi hanno tutte la stessa serie, invece se sono buoni, ogni banconota cambia serie. Ehi, ma hai visto da poco il televisore l'ha fatto vedere, quella fabbrica che hanno investigato. Oh, c'era da poco, ma intanto ci hanno levato di là, prima di investigarli. Sì, quelli erano perfetti, però si sono accorti perché la serie era sempre la stessa. Però come stampa, cose erano perfettissime al 100%, così non te ne accorgevi dando per mano. Avanti, Luca. Sì, ciao Bacchi. Anni fa, io ho visto lì un telegiornale, mi sa, in zona di Napoli, lì, capo, ci avevano i macchinari per fare i soldi, e venivano in bocco di strati di carta, no, per fare i soldi, ma da tutti da 20 euro. Ma chi? Quelli che ho trovato io, che... il sensore, anche il sensore ha detto che erano perfetti. fa la terza volta come li ha girati, sono passati, che erano invalsi. E ogni volta si vede la brutta, capito? Avanti, sono morito. Ok. Salut, buonasera. Ciao Giovanni, ci stava sentendo a vedere perché l'ho spento prima che c'era uno struzzi che metteva la musica. Allora adesso mi preoccupo sì, no? Vai vai, aspetta vediamo un po', grazie. Ehi, pensavo che le ha fugato la doccia. Chissà lei, ma che stai dicendo, non vediamo più salvare gente. ma col piede stallo. No, col piede stallo. Ciao Mavi, rifigliatela tu, col piede stallo. Ehi, mi pare millando, a chi ha giù fame, e comincio a dare pure a che cosa, mi pare, così che vi lascio in buona armonia, buon proseguimento in serata, tutte e tre, mi raccomando, dai cosa, ma chi tu, a chi si no, Graziano, sa gruppo. Breco! Registrato il breco. Ehi, San Marino. Beh, provate là quella roba lì. Andava bene? Tu gli avrai ragione. Dai, ne approfitto, dai, chiudo. Che devo fare cosa. Per cui ne approfitto, dai, to, buon proseguimento, riprendi tu, dai. Buonasera, circolare a tutti e a domani se coincide, ok to? Ciao, saluto, alla prossima. Ma chi non l'ha già assaggiato ancora, a domani. Grazie, a domani se tutto coincide. Bene, avanti, grazie. Un attimo, ma chi? Sì, dimmi Gianmarì. E non l'ha già assaggiato ancora questa cosa, no? A domani, va. Domani l'assaggio. Via, via, fammi sapere. Ok, dai, riprendito. Che sono io, ciao Giovanni, ben sentito e buona cena, saluto in casa. Ciao Luca, ciao Bacchisio, ciao anche Tore, benissimo. Avanti Bacchisio. Ok, ciao Marino, buona serata, ben ascoltato. Ma è venuto amico, l'amico lì, Marino, fino alle 6:30 l'ho aspettato, non c'è venuto. Non c'è venuto, ma a Madeveghi ha avuto, si va, perché abbasso la sua radio. A Madeveghi ha avuto, sì. Sì, sì, usando di Dore, di Giovanni. Mario Monetto dice, ma chi ci aveva fatto la tazza, era mezzodì, e dunque era carica e non ha trovato ancora. Avanti, Dore. Ehi, sono andato un attimo, mi sono spostato. Andave. Beh, così, andave, mi sono spostato. Ma non c'è mai niente, cosa vai in bocca? Ciao Luca, ciao Marino, ciao Tore, ciao chi è in ascolto. A domani, ciao, riprendi tu Luca, ciao ciao. Ciao, grazie, saluta Paoletta anche da parte di Marina, dai, ciao ciao. Avanti, quando riprende, riprendo io. Ciao, grazie, ben sentito, saluto in casa. Ci sentiamo domani se coincide. Luca, riprendi? Giocato. Riprendi tu, l'ho già salutato io. Riprendi tu di nuovo, Mari, che ti ho parlato sopra, vai. Uia, non ti sento male oggi. Uia, tutto disturbato, quel REM. Meriti davanti al Poggiolo, oppure attaccato alla serrala volgibile. Che ti ascolto bene. Così è, Bacchi, ehi. È probabile a caricarmi caricato stamattina e non ce l'ha fatta alzarsi stasera, non so, buh, avanti Bacchi. Sì, infatti gli ho detto che ci passo domani mattina a vedere un po', se ne ha voglia di farlo o no. Aspettiamo la carrozza. Pare, sembra una cosa buttata in mare, ne zecchi uno non acciappa, ne zecchi l'altro, peggio uno peggio dell'altro. Andiamo bene meno, dai. Avanti, sono saltato a Graziano. Ciao Graziano, buona serata. A domani se tu coincide. Ciao, le riprenditela. Ehi, ok. Ciao Graziano, stammi bene. Ok. Non so, sei entrato. Buonasera Marino. Paura, meno male ti sei svegliato. Boh, sei ansura, però io ho capito. Ma cosa stai mangiando? Cosa c'hai in bocca? Io? Non da mangio, ma cosa? Beh, stai mangiando qualcosa, se mangiavi qualche mezzo camperone, boh, non lo so. Ti sei un po' cupo. Proprio per la mia radio, non lo so. Avanti, signor Marchisio. Ehi, no, c'è la radio che è andata male. Il microfono che sto partendo. In Australia sto dando il microfono di Tore. Vabbè, dai. Io ne approfitto, lo stesso tanto sta terminando anche i discorsi e poi vado a cenare. Buonanotte a tutti, alla prossima, ciao. Ciao Luca, buonanotte, saluto in casa e la signorina. Avanti Tore per Luca. Ciao Lu, stammi bene, ok. Sta attento come mangi, tieniti leggero, anche se no da buio andiamo a finire in mare quest'anno. Ehi, dai, salutiamo Luca, ciao Luca, buona serata. Arrivederci, a domani se tutto coincide. Benissimo. Avanti, ciao Tom, cosa mi dice? Cosa vuoi che ti dici, amico? Sai che andavo già da te, ero alla messa di quel ragazzo che abitava vicino a Mario. Che ragazzo sta vicino a Mario, pure, non lo so. Non lo conosco io, allora. Abitavo vicino a Mario. Marino, tu lo conoscevi? Non ho capito di chi, dottore, ma è vicino al negozio o vicino a Cotiaca di mio fratello? È vicino al negozio quasi, abitava. E poi, non lo so, tuo fratello lì a Lateroce abitava. No, in campagna abitava Mario, in campagna. E come si chiama questo ragazzo, scusa? Il cognome non me lo ricordo, Angioletto si chiamava, Angelo. Il cognome non te lo ricordo, Angelo, boh, non lo so. Ma c'è la messa di un mese, non dire? No, te lo ricordi dove era il tabacchino prima? Sì? Cioè, di fronte al tabacchino. Dove era la sala, non dire, giusto? Di fronte abitava, al tabacchino proprio. Il tabacchino dove c'è il signor Renzo, il viaggio vedeva dove era sano, così è. E lui dove abitava? Pronto, nel palazzo, a pian terreno. Dove c'è il tabacchino stai dicendo? O di fronte? Aspetta, il tabacchino dall'altra parte, sì, di fronte abitava. Al pian terreno. Ma non è per caso che è sposato con Cocco? Con Cocco, grazie alla Cocco. Vabbè, abita, vabbè, il portone di Mula, sopra Mula, il primo piano abita. Perché sotto lui ci abita Mula, abita. Ho capito, già un mese ha fatto, così è? Sì, un mese, già un mese. Un mese a oggi, al 2. Adesso come è volato, dopo. Mi ha decorato Mario, il giorno che sono andato, il mercoledì. Mi ha detto che era dispiaciuto e non ce l'ha fatta andare al suo funerale e neanche il funerale dell'altro amico che abitava vicino a Via Mundes, lo stesso. Era preoccupato che non è andato a trovarlo. Oh Iuia, va bene, là. Siamo di passaggio, avanti, siamo a Bacchisio. Siamo tutti di passaggio. Eccoci tutti. Bene, io ne approfitto del micro per passarmi in QRT e prendere tutta la buona sorte che devo prendere. Bene, ciao Tore, buona serata, saluti in casa, ciao Marino, saluti in casa anche per te. E se coincide ce lo vediamo domani, sperando che venga con l'amico tuo domani. Vediamo un po' dopo il mezzogiorno se lo trovo. Ok, riprendi Marino. Sì, al centro, Bacchi, ciao, saluto in casa, Bacchi. Ci vedo domani se coincide. Avanti, sto. Aspetta un attimino, gira, ne approfitto anch'io, dai. Gira, vado, mi faccio la riosoia, c'ho il naso, non respiro più oggi, non respiro più. Bene, ne approfitto anch'io. Ciao, sto ben sentito, sono tutto in casa. Ci sentiamo domani se coincide. Avanti, sto, per saluti, così chiudo anch'io, dai. Sì, ok, ciao Marie, ciao Bacchisio, statemi bene tutti e due. Ok, ci sentiamo domani, se è andato tutto bene. Ehi, a domani, ciao. Ciao a tutti, ciao.